potrebbero dire che sono andato sotto un treno, è più grave, hai capito? Per cui cerco di immaginarmi il declino come un momento di libertà. Eugenio D'Andrea, avvocato di Lucio Dalla per 20 anni. Com'era seguire Lucio dal punto di vista legale? Ma seguire Lucio dal punto di vista legale era facile. Era molto facile perché Lucio era un cliente particolare, nel senso che a parte si affidava completamente. Quindi la sua battuta ogni volta che c'era da firmare dei contratti o delle liberatorie, quando io gli chiedevo se voleva leggere o guardare, lui diceva no, se io te devi fare questo lavoro io non devo leggere nulla, quindi in pratica quello che tu mi dici di fare lo faccio, dimmi dove devo firmare e finisce qui. Quindi già questo era una grande agevolazione. Poi era facile per un altro motivo, perché Lucio era un artista che, voglio dire, non si tutelava, cioè doveva essere tutelato, nel senso che lui era talmente generoso e talmente entusiasta di quello che faceva che non poneva limiti, non poneva veti, non poneva nessuna barriera, quindi alla volte ero più io che mi preoccupavo di mettere nei limiti, nei contratti o negli accordi quello che doveva fare, che non lui. Quindi insomma, questo certo agevola il lavoro per un avvocato. Ecco, appunto, che rapporto aveva con i soldi Lucio? Con i soldi aveva un rapporto fantastico, assolutamente. Lui amava circondarsi di belle cose, di amici, per cui poteva andare fuori, offrire pranzi e cene a, non lo so, a volte a delle tribù che si accodavano di persone che lui andava a incontrare, e poi comunque amando la vita profondamente, comunque gli piaceva fare cose che erano belle, e purtroppo spesso le cose belle costano, e non ho mai visto tirarsi indietro in questo, che fossero opere d'arte da acquistare o posti da visitare o altro. Nel suo articolo sul Corriere della Sera lei ha parlato della fede di Lucio Dalla. Che tipo di fede era? Molto molto credente e anche praticante. Che io ricordo andava in chiesa sempre, tutte le domeniche, dovunque si trovasse, in qualsiasi paese, città e anche all'estero. Gli piaceva andarci, andava da solo, rimaneva lì raccolto in chiesa, e soprattutto gli piaceva anche in quel caso andare a vedere e scoprire chiese nuove e posti nuovi, per cui anche lì era anche una ricerca di questo tipo. E riguardo invece la fondazione di cui si è molto parlato in questi giorni, siamo arrivati ad un accordo tra i parenti di Lucio? Si farà questa fondazione Lucio Dalla? Si farà, proprio in questi giorni i parenti hanno raggiunto, penso, insomma, hanno definito gli ultimi dettagli, quindi la fondazione si farà. Ora quelli che sono poi gli scopi, quelle che sono insomma una serie di notizie su come funzionerà e su quelli che saranno gli organi della fondazione, è ancora work in progress, quindi credo che ci vorrà qualche mese, però è certo che la fondazione ci sarà, anzi proprio a giorni verrà annunciata, o lo è stata proprio in questi giorni qui. E questo era un volere di Lucio? Per un volere di Lucio, sì, perché quando Lucio parlava di quello che a Marsi avrebbe dovuto lasciare, spesso diceva che alla fine gli sarebbe piaciuto che ci fosse una fondazione. Di che cosa si occuperà, lei riesce a dirlo? No, non riesco a dire, perché appunto veramente sono tutti dettagli che credo saranno definiti nei prossimi mesi. Ci è già voluto molto per arrivare a trovare, diciamo, un punto d'incontro fra tutti. So che i cugini però hanno deciso finalmente di farla, quindi come base comunque sarà fatta dai parenti di Dalla. Lucio amava molto Napoli e il sud, e si è scelto un avvocato, un napoletano, un caso? Quello è un caso, però devo dire che è un caso però su cui poi giocavamo, perché talvolta io dicevo che forse mi trasferivo, andavo via da questa città, e Lucio diceva no, assolutamente non te ne devi andare, perché la mia scusa di avere l'avvocato a Napoli, che è un motivo in più per venirci, perché comunque lui amava molto stare qua, quindi trovava occasioni per venirci a prescindere da me. Però il gioco che io stavo qua anche aveva il suo perché. E poi in questo, perché Lucio non distingueva molto lavoro e amicizia, perché era difficile che avesse dei professionisti con i quali poi non stringeva anche un rapporto di amicizia, Napoli in questo agevolava, lui aveva la barca qui e questo andava bene a lui, andava bene anche a me, perché da maggio in poi qualsiasi riunione di lavoro si faceva nella sua barca, sulla costiera sorrentina, insomma in situazioni molto molto piacevoli, insomma non eravamo chiusi in un ufficio con le luci a neon. Grazie per questa intervista.